Graziano! Che? Sta lì, tra sei! No, figlio, sono! Ciao Marie, che facendo c'è? Ma che me ne facendo c'è? Ehi! Chi? Aspetta, gufo! Aspetta, gufo! Aspetta un minuto! Ah, vedi che la cavata è la cappucciata! Ehi, me lo vedi! Beh, grazie, mi ha appena rientrato! Ma non ti ho visto a te, però, cosa stai facendo l'impasto? Ah, su, come fa a farlo giù? Devo farmi quattro piani. Anche se c'è l'ascensore. No, lì impasto poco a poco, dai. Comunque abbiamo finito già. E a chi non sta giù, visto? Ma c'è rimasto da fare a fino e imbiancato, ma... Ah, no, lo vuole così. No, no, già fatto, tutto a fino, tutto pronto. Pronto a piazzare la porta. Adesso come asciuga bene, devo aspettare un po' che asciughi bene. E beh, basta poi appoggiare la naveccia, basta nuti, non vi salte di sciugli. No, uno sgabuzzino, eh. E vabbè, ma è dentro casa, sarà. No, è sopra l'altro piano, non è dentro casa. E non c'è nessuno, tu conosci nulla. Cioè, c'è roba dentro, non c'è gente, no. C'è un tipo magazzino, dai, chiamalo come vuoi. Poi c'è un cancello anche. Per entrare lì devi aprire il cancello. Allora le conviene infilarcelo domani il portoncino, che asciuga più bene, tutta la notte. Ma sono portoncini che sono fatti su misura e bisogna aspettare un po'. Comunque già è fatto, dai. Mi assento una ventina di minuti circa. Oggi mi tocca lavarmi, sennò è un casino. Mi prendi Giomari. Giomari! Caduto, Tuffo! Dimmi! Lu! Che stai facendo? Niente, Gio Maria, non senti. Giù mi ci vuole l'antenna mezzo capottata. Che è che fa l'antenna capottata? Gio Maria! Ah, nella 27, già l'ho vista un po' sorta, quella lì. La mando, vai allora. Ho visto stamattina, sono passato in zona lì. Ma di tu calpi, stavi a giugare la vista, mi pareva ridotta, pendente verso la strada, così. No, prima la dritta, la perfetta, l'abbiamo messa apposta, il vento gli era un po'... sono mollati, tirate, sei un po' capottata. Ce l'ho vista già, è cucata, mozzichita da nasce verso la strada, io l'ho vista da giù, da più su delle poste, da dove c'è per girare al comune di la circoscrizione. Stava andando lì, ma era chiusa, era aperta stasera, si parla domani mattina. Mi devo fare nuova la tessera elettorale, ce la faranno là già lì. Ho capito, dai. Giù capito. È un po' stanchetto stasera, ma va bene, dai, non c'è problema. Quando ti cocco, ti riposi, ti passa a tutti. Non c'è cosa più bella ai soldi lavorati. Chiaro, qui. Luca, cosa stai facendo? Organizzandoti la cena, sa? No, assolutamente. Questo mi hai mandato tu e Francesco Fuis il video. È in Corsica, ti piace? L'avevo già visto, lo so. Anche l'altra volta ho visto, sta bastonando, sta lavorando lì. E lì lavoro già ce n'è, l'aveva detto lui. Gli andi guai ti travati, fate travagliare. Però per di travagliare. Senti, basta bisogno di là e uno travaglia, non bisogna di là uno travaglia. Però ho notato che molta gente è andata lì e se ne sono scappati perché non stavano pagando, capito? Ma no, sono i figli di questo che abita qua nella palazzina a fianco a me. Uda si chiama. ci vanno spesso lì e ne fanno di lavoro e rimangono là anche. Hanno la casa a fune, figurate, lavorano là. Addirittura uno dei figli si è sposato con una tassista della Corsica, è stato a fine settimana viene qua, evidentemente porta qualche di una compagnera per il fine settimana dalla Corsica e viene insieme al marito e alla figlia e si fanno venerdì sera, sabato e domenica sono al reparto. Lo so, però secondo dove vai? Non stanno pagando? Dove stanno lavorando loro, io so che li hanno sempre pagati, basta informarti da loro, non li conosco. Ma neanche gli incontri? Te lo chiedi, se quando vengono qua, che già vengono, se lo vedi, basta che glielo chiedi. Ma la moglie ha finito la casa, sentita Paolo, pensa che ci manca la moglie a pulire la casa. Caduto sì. No, aspetta, grazie, che mi hanno mandato un'amicizia stamattina, ma non so chi è, non mi ricordo il nome, aspetta, che la sto cercando. Ehi, you. Facendo? Guarda se ti piace quella ragazza che ti ho mandato che sta cantando l'Ave Maria. L'ho già sentita mille volte. Capita, va tutta in giro. No, io non ce l'avevo, è bella, è brava pure. E beh, e cosa stai facendo? Ah, aspetta un attimo. Ehi, so chi no, Johnny Mari, il mantello, ascolto sei, Torre, a te sei. E cosa mangiamo stanotte, grazie? Stasera, stanotte, una pappassuta stanotte, poi c'ho i funghi con i peperoni, funghi in forno, in teglia, ci sono, le polpette che ho fatto a mezzogiorno. E poi veniamo a mangiare, noi non veniamo, a Puglia. L'appetito vivo. Lo so. Già lo so. Vabbè. Si mangia, chi si può mangiare. E buonanotte, assicchio. No, a mezzogiorno prima non ne ho fatto quello. Tutto secondo. Ma tu vai. Sino da voi, siccome ne ho fatto troppi secondi, i funghi in forno in teglia, poi il tegame, funghi e peperoni, poi le polpette friste e anche col sugo, e poi beh, cacio, avuglia, salchizza, carnivo, e cosa venire a fare pure un bastaciuta, no, dopo la faccio un po' di spaghetti, no? Il suo già ce l'ho pronto, ragù. Già se meno latte non ti ne fare, dimmi, la giusta stamane. Davvero? Oggi ci va, ciao, chissà chi era ben tassabile, non passavi lì, avanti mi do razza. Salve la farà. Lasciate la farà, e lui si va a trovare, che non li farà. E l'ho vista stamattina, ha detto, ma cosa è successo? C'ha che fulmine, ti ha fulminata. Non saranno, non che le palazzo facilmente, no. Fa fare, devi truccarsi lì dinanzi, se no non li farà, anche se... Se è barreggiusca non li farà. La mia è sempre barreggiusca, è sempre di vista, ma è già mezza da giù di tu. Mi pare un po' più barreggiusca, già ne farà la cabicciuglia. Faccio compreso. Che la mia, stamani, lì era bene, invece la mia è sempre un po' storta. perché non avevo messo l'altro tirante. Noi dritta, dritta, dritta, muro a Gioia, però. Non li fare, sta tranquillo, questi traffici non li fare. Oddì, come se non li fare la mia. Però i tiranti, volati, sono stati tirati, però. Non è a piombo, piombo, fino a primavera già resiste, ma a primavera lì con il terra e poi siamo il gannao. No, ti conviene lasciare quella corda, perché adesso la corda si è stirata, capito? E adesso tu quella la alleggia per appena, la tiri e rimane per sempre, perché la corda l'ha stirata bene adesso, capito? Ehi, parlare a dove? A tempo buono si deve fare il tempo. Ma va, ma come al solito facciano la sazzurucca. Però mi gioco a sazzurro, caccia. Pare come c'è mi sento, ma si sta da sopra, da voi, è stato l'altro mese in un riccio, no, saranno. Oh, troppo freddo, vai, va. A tempo buono gli ha fatto. A vanno, non direi come si va. Anche se è dritta dritta, allora mi dà tutto, ragazzi, davvero a te, se non li fa l'altro, è ben accurata. Ehi, se fa una giornata bella come oggi, tu di a Luca, tu non per bisogno che hai, alza Luca, allentare i bulloni e ti la tira e la torna il trignì, ed è già dritta, assai, tu cosa sa fa? Vero Luca? Ma che bel freddo, va, ma poi dici, da fatto il male, ogni male si attacca alla tenda. E Luca si deve mangiare il basso forno ancora. No, stavo parlando qua poco fa, praticamente. Gio Marie, con l'antenna, devo sai che devi cambiare il bicchiere, perché sto marzo. E poi rimetterla di nuovo in sempre, dritta come era prima, tirare bene i tiranti e forse aggiungere un altro tirante in più, perché dalla parte dove ha tirato il vento lì tirante non ne hai. E io la sa, la mettiamo a posto, ma la vada lasciamo così. Mi servirebbe la gravata di ferro, grazie. Non è che dirai la gravata a giugno, una gravata di colerano che mi serve. No, proprio gravata non è, avevo un piede di ponteggio, quello me l'avevo tenuto e l'ho usato a Saffa, gli altri li avevo portati a Portobello, il stato non mi si via né di un braccetto. No, mi serve un pezzo di gravatta, mi serve di quello, di gravatta ai pilastri, capito? Perché ne tolgo, ne taglio a quel bicchiere vecchio, lo tolgo e ci salto la gravatta col bicchiere già saldato, capito? Almeno lì dopo arrivare più duro e più perfetto, capito? Faccio i buchi in modo che quando scende l'acqua non si riempie il bicchiere, capito? Però mi serve la gravatta e allora quello bisogna dirlo, si viene un brecula. Prova a chiederlo, se lo butta Luca o Luca del Monte oppure a Marino, magari Marino in campagna no. Se lo sente già, glielo dico. Se lo sente, glielo dico. Magari lui, qualcuno che fa questi lavori, magari, là. Almeno un pezzo me ne serve, capito? Almeno un pezzo gliela fatta. Perché gliela saldo o sopra quella che c'è, capito? E poi sotto a quello ci saldo il bicchiere, però ci lo metto l'acciaio, quest'altro bicchiere glielo metto l'acciaio, e per cui tanto la gravatta stato d'acciaio Mazzetti, per cui acciaio per acciaio gli va bene. Se no, puoi guardare in Viale Portatore se da Marcito, l'occhio di attore, magari pinnacca che luna. Ah, che bene sarà sì. Quindi sarà sì, ma il problema è la bufola, che andrà a primavera è la bufola, capito? Perché il bicchiere me lo saldo qua direttamente, poi su le metto due punte e la blocco, e andava così. Ah, passando lì, quando ti capiteggia entri da Torre Marcello in Viale Porta Torres, o parcheggi di un rifornitore a Uccio, e trebbi la domanda, sicuramente già ne avrà messa a parte lì. E gli alla buffo, dai, ho da Marcello a casa, gli alla buffo, e infatti vivo. Ah, cosa sono queste cravatte, quelle dei punteggi? Quelle cravatte che quando fanno i pilastri, no? Per le branassi, che le riempano di cemento, quelle lì sono tutti ferro le cravatte, capito? E poi sono quei cosini del punteggio, quelli per le gare. Lo si può costruire, Gio Mari. Ha qualche fatto, e te la fai costruire. Quelli sono molti, questa lunga. Quelli sono molti che servono per congiungere il punteggio con l'altro punteggio, o per trovare un braccetto, su un cartaggio di molto carico, tutte queste cose lì. Le cravatte sono quelle che il più le adoperano i carpentieri, le usano per fare i pilastri, capito? Quando lo armano mettono le cravatte. Io ce le avevo in campagna, sì, di chi di manni le avevo usate per il portoncino d'ingresso, a incollarlo e tutto, sparite, via via sotto la lunetta qui. Non la giubbotti in un magazzino, ma non arrugginì. Ce le avevo sotto il letto e sono sparite. Via, via. Va bene, là, chiudo. Ci sentiamo domani, grazie. Buon proseguimento, sono tutti in casa. Ciao, lui, anche a te. Domani, buon proseguimento, buona chiacchierata. Chiudo. Ciao, Gio Mari, a domani, se coincide. Ciao, vai, lui. Via, ciao Gio Mari, dai, buona cena, buon tutto, saluto lì in casa, alle prossime, ciao. Ehi, io vi la via, amico, è grande pure era, oh, aveva sembrato il portoncino in legno quando l'ho tutto incollato in campagna, e sono pariti da campagna, sicuramente se ne erano pizzicati me cugnato. Sono quelle cravatte, sono quelle che abbracciano il, diciamo, il gettito, il coso del calcestruzzo, sono quelle. Ehi, fai l'anima in ferro, no? O con le staffe e la trafila, li dei, poi prendi le tavole, metti le tavole e poi metti le cravatte che mantiene. Una tavola e l'altra tavola, la vesigna e il trigni, capito? E trigni di dauri. Ho capito. Non se la fa costruire, non ci posso fare. Non lo so, io non ne ho, sono volentieri. Se vuole qualcosa di... come si chiama, quelle che tutto prima, di quelle già qualcuno già gliela posso procurare, però di queste cravatte no. Io ne avevo un sacco prima, quando lavoravo, quando facevo l'ordinatore già ne avevo, poi me ne procuravo anche dai cantini, me li dava il signor Giovannino, quando andavo a portarli contro Serai, che li chiedeva e mi dice a te, piglia di rischi, e io me li portavo in campagna, capito? Li adoperati, a voi li hai usati. Poi, quando non hanno più trattato, giunto un amico mio, mi ha già detto a far rubire. Sei puta di quello, le cagnette, un bel di cagnette ci avevo anche. E tutto l'ha già giù, i carrioli, i cantisi, quelli che altri col moto a carico. Vabbè, in cantiere magari, si può costruire. Vabbè, se no si può costruire, grazie. Si compra il ferro e si costruisce. Ma cosa, se passa il vento alle portatore, se marci giù ne avrà catastato. Perché quella roba così, marci giù, non ce la butta il ferrovio. Quella roba la tiene in deposito, se ci venga anche uno, vedi, vedi. La roba buona, marci giù, non la butta, la recupera. Anche i tubi lunghi, l'Italia si fa a misura e poi vengono i pastori, venivano, mi ricordo, quando ci lavoravo io, e li compravano per utilizzare la paletti per campagna, capito? Per farsi le recinzioni, per le pecore, le mucche. Ho capito. Vabbè, già si risolve, dai. Dopo il vento è maledetto, sai che fa danno il vento. Fa entrare le tettoie, non le butta giù niente. Cartelli pubblicitari. L'ha capottato il vento. Mica a me il vento mi dà tutta smossa l'antenna. Infatti quel braccetto che avevo messo io me l'ha smosso, si muove, ai sì non esci, a chi vedi tutto un blocco dell'impasto, però si muove quel braccetto che avevo murato, me l'ha smosso il vento, mica no che gli tira vento, io lo vedo in pieno inoltre. La vetrata certe volte la devo puntella da muro al centro vetrata, altrimenti non sai come si diventa arcuata. Purtroppo si sa, grazie che il vento è maledetto. Poi secondo come tira, guarda che la mia antenna non è sempre attaccata bene, però ancora gusti, come te dico, quanta giubbiata è rimasta. Ma io penso questa antenna anche di Nivara e qualche giorno me la trovo giù. No, la mia farà anni che non li fa, rimane così, raccendono e non riscende. Vedo tre staffe in tutto, va, e tre tiranti, due tiranti o tre tiranti mi fa, l'altro non l'avevo visto. Vabbè, dai, abbassa che mi faccio l'insulina, ce la sentiamo a domani. Ciao, buona cena, saluta Marina, da parte Paoletta pure. Ciao, a domani, salutone a chi è in ascolto. Ciao, grazie, contraccambiato anche da parte di Marina. A domani, ciao. Ciao Paoletta, ciao, grazie. Ciao Marina, ogni tanto dagli una frustatella. Ciao. Cosa hai detto? Perché? Di cassetta. Mattarello ogni tanto mi puglia a braccio, ogni tanto insomma, mi picchia con la bicicletta. Già la guanti giù, va, frustalo. Ciao, buona cena. Ciao, 60. Tu casa la mangi, poi c'è il pollo arrosto. Luca, buddy. Ciao. Ciao.